vero che Mario Balotelli a gennaio arriva alla Juve? Perché sinceramente a me da juventino, anche se me lo regalavano, non me lo prendevo. Da questo momento, lo dico quasi quasi credendoci, il Palermo vincerà lo scudetto. Volevo risollevare un attimo il livello del colloquio dopo aver sentito Cassano, perché veramente non si può sentire. Tutti convocati di Carlo Genta. Non ci credere. Pensavo che avessimo più tempo. Il mondo, come sappiamo, presto finirà. Sta cominciando. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. Altro cross a cercare Dante che fa da torre. Müller! Thomas Müller! Porta il vantaggio il Bayern Monaco! Calcio d'angolo battuto da Robben. Müller dentro e arriva poi la deviazione di Mario Gomez per il gol del 2-0. In area Robben, le finte, vuole andare verso l'esterno. Robben! Per il 3-0. Tanto alla va al centro Müller! Voleva uscire. Una doppietta straordinaria. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, ciao, 800240024, vi convoco in questo primo giorno della nuova era europea, forse, ditemelo voi. 800240024, Franco Piantarini, autore di questo programma, Roberto Scaltriti in regia. Paolo Condò, inviato della Gazzetta dello Sport e penna illustre, che ieri sera ha assistito forse alla fine di una monarchia in Europa e all'inizio di un'altra. Ciao Paolo. Ciao Carlo, sì, ci sono delle possibilità. Partendo dal presupposto che Messi aveva ancora 25 anni, quindi fatalmente e a lungo sarà un uomo fondamentale nella geografia europea, io credo che il Barcellona resterà ad altissimi livelli, ma perché? Perché agirà sul mercato. Sì. Questa squadra attualmente sta perdendo competitività. Sì, ma ogni cosa finisce, no Paolo? Tu mi insegni, ogni ciclo ha un inizio, una fine. Ma non solo ogni cosa finisce, ma i dittatori generalmente non muoiono nel loro letto, ma in un bagno di sangue. E se mi passi, se mi passi la metafora un po' rossa, come dire, è quello che ho visto ieri sera. Senti, cioè, ma sai ieri cosa... sera non è stato accompagnato alla porta del Barcellona. Paolo, giuro, è stata proprio... ma sai cosa ti stavo per dire io? Che ieri sera, adesso a noi piace forzare, sai, facciamo questo mestiere, ci piace usare anche le metafore. Quella di ieri sera ti stavo per dire, non è stata una partita di calcio, ma una specie di guerra sportiva per la successione al trono. Ma secondo me è stata, come l'ho scritto, un'esecuzione. Un'esecuzione. È stata un'esecuzione, lo si è capito, come sai io conosco bene il Barcellona, l'ho visto milioni di volte. Infatti. E fin dai primi minuti ho capito come andava a finire, dal fatto che loro facevano il loro possesso palla per perdere tempo, per far passare il tempo, non per irretire il Bayern e cercare il punto dove colpirlo. Lo facevano in base al ragionamento, se la palla ce l'ho io, non rischio perché non c'erano i miei avversari. Sì. E questo era molto visibile, e il Bayern in questo momento è proprio è il trionfo della Germania. Ci poteva esserci la Merkel con la maglia di Mario Gomez ieri, perché erano forti, trionfanti, organizzati perfettamente, vicendevolmente solidaristici. Sì, sì, sì, era una cosa proprio, ci si sentiva, io non nascondo che le mie simpatie andavano al Barcellona, come sempre, perché io sono innamorato di quello che ha fatto questa squadra nell'ultimo lustro, e insomma mi sentivo proprio un piccolo latino nel mio cantuccio. Alla fine mi sono arreso, mi sono consegnato, ho dato nome e numero di matricola e ho chiesto che risparmiassero la mia famiglia. No, ma li hanno presi a schiaffoni fisicamente, Paolo. E sai un'altra cosa? Ma anche tecnicamente. Anche tecnicamente. Hai ragione. Fisicamente è sempre così. Invece il Bayern ha anche una straordinaria tecnica di base in tutti i suoi 11 giocatori. È questo che la gente non vuole riconoscere, perché un giocatore come Müller, io nella mia squadra lo prenderei sempre, così meraviglia. Come uno come Schweinsteiger lo prenderei sempre. E ti dico di più, forzando, Mario Gomez mi piace, Mandzukic mi piace, però avessero un centravanti tecnico, non so, mi viene in mente Balotelli, ma adesso la gente impazzirà, però avessero anche un centravanti tecnico sarebbero ancora di più. Sì, voi uccidiamo tutti i tifosi dell'Inter in questo momento. Vai, spara, ci stanno sentendo. Questa mattina ho parlato con un mio amico che è un dirigente dell'Inter, di quelli coperti, insomma, che fanno le operazioni coperte, non di mercato, intendo dire. E lui mi ha detto che subito dopo la finale del 2010, quando batterono il Bayern, c'era la concreta possibilità di comprare Müller. A un prezzo accettabile. Io relata refero, so soltanto che solitamente questo mi dà delle dritte giuste, e mi ha raccontato questo particolare, che ci fu un colloquio, ci fu quella possibilità. E immaginare adesso Müller con la maglia nera per i tifosi dell'Inter sarebbe una cosa fantastica. Fossi un tifoso dell'Inter starei già picchiando la testa contro il muro, fosse vero, io ti credo. Senti, un'ultima cosa, anzi due, di volata. Il Bayern Monaco che annuncia Götze la mattina di questa partita, 37 milioni, regalo inviato a Guardiola a New York. Prima cosa. Seconda cosa, Messi, perché non sarà mai Maradona? Maradona non avrebbe mai detto proveremo a rimontare questa partita. Mi è piaciuto di più Piqué, che ha detto è stata una disfatta. Sì, allora, la prima domanda è perfetta per la radio del Sole 24 Ore, quindi particolarmente attenta ai temi politico-economici. Succede questo, io sono un complottista, preciso, io adoro i complotti. Sì, anch'io. La tesi è questa, il Bayern è in una situazione gravissima per lo scandalo di Enes, no? Sì. Per l'evasione fiscale saltata fuori. E il Bayern è una roccaforte della CDU, del partito diciamo democratico cristiano bavarese, che è comunque il partito a cui è alleata anche la Merkel, e mentre invece nel Borussia Dortmund uno dei massimi dirigenti del Borussia Dortmund dovrebbe essere, non mi chiedere il nome perché francamente fin lì non arrivo, il candidato della SPD alle prossime elezioni. Nel momento di disastro mediatico per la questione Enes, la stessa Merkel si è detta molto delusa e ha preso le distanze da questa figura. Che cosa facciamo per provare a ribaltare, per stornare l'attenzione e insieme mettere un po' di problemi nel campo della SPD? Andiamo a prendergli il loro miglior giocatore il giorno della finale, la vigilia della semifinale. Grande. Della semifinale di Champions League. Non so se sia vero, naturalmente, però è bellissima. Grande lettura, grande lettura. È bellissima raccontata così. E Maradona cosa avrebbe detto? Maradona avrebbe detto ce li mangiamo al ritorno. Avrebbe detto ce li mangiamo al ritorno, oppure avrebbe detto come ha fatto Ettore Messina, ci hanno presi a calci nel culo, ma non avrebbe detto proveremo a rimontare. Perché? Avrebbe detto tutte e due le cose. Sì. Cioè, da una parte avrebbe detto ci hanno preso a calci lì, dove hai detto tu. E la seconda cosa però non avrebbe detto ci proviamo, avrebbe detto ce li mangiamo. Sì, poi sì, non sarebbe successo. Certo. Però intanto l'ambiente, non lo so, andrò a Barcellona nei prossimi giorni, vediamo, non credo che parleranno di grandi remontate questa volta però. E allora ci sentiamo. Grazie Paolo. Ciao Carlo, ciao, ciao a tutti. Grazie a Paolo Condò. Dunque abbiamo iniziato alla grande, mi pare, con un sacco di temi, compreso quello di Müller all'Inter, compreso questo che vi leggo al volo prima del traffico. A proposito di Inter, anche se c'è chi mi manda delle mail. Le mail, per favore, comunicazioni di servizio, mandateli a tutti convocati a radio24.it più che a sottoscritto, perché almeno diventa un po' più semplice. Ebbene, non sarà Bulat Utemuratov. Bulat Utemuratov, il nuovo investitore dell'Inter. Il presidente della Federtennis Kazaka, associato ieri al club di Massimo Moratti, ha voluto smentire ogni tipo di interesse che riguarda il calcio e di conseguenza l'Inter. Non ho altri progetti per quanto riguarda lo sport che non riguardino lo sviluppo del tennis in Kazakistan. Queste le sue parole. Poi c'è chi mi dice che sono sarcastico sull'Inter, ma non è vero, cioè nel senso che Ironizzo, sì, ma come facciamo tutti quanti, come fa anche ogni tifoso sano dell'Inter. Tutti convocati. E allora torniamo per parlare con gli ascoltatori, molti dei quali via SMS insistono sul fatto che erano ad annullare 3 gol del Bayern Monaco, secondo me due, già sono tanti, ma non mi sembra che questo sia il senso di quello che abbiamo visto ieri sera. Ieri sera abbiamo visto il Bayern Monaco che ha distrutto il Barcellona. Poi noi siamo abituati a guardare il centimetro qua e quello là, se era oltre o non era oltre la linea dei difensori eccetera. Io ho guardato la partita e ho visto il Bayern Monaco che ha distrutto il Barça. 800240024, Luca, provincia di Modena, è il primo ascoltatore di oggi, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Volevo parlare di un Bayern Monaco diverso, nero verde, visto che Radio 24 è la radio del dottor Squinzi e al Sassuolo Calcio, che è appunto proprietario del dottor Squinzi, sì, ha il primo match ball per giudicarsi forse la Serie A proprio nel derby col Modena nell'anticipo di Serie B con mi sembra sia stato al di là di proprietà e questioni varie, mi sembra sia stato un dominio totale, no? Quello del Sassuolo in Serie B. Veramente incredibile, proprio un campionato eccezionale per i ragazzi nero verdi dopo vari tentativi. Sì. L'anno scorso direi purtroppo davanti agli occhi di tutti derubato dalla Sampdoria, ma il numero degli abbonati in Serie A fa la differenza, quindi i nostri 1200 contro i 12 o 13 mila della Sampdoria credo che abbiano avuto purtroppo questo non lo so Luca, questa mi sa di etrologia, cioè non so quanto si stia a guardare il numero degli abbonati, il palmarès, la storia eccetera eccetera. Io penso che quest'anno Sassuolo abbia dominato il campionato di Serie B e stia andando dove merita di andare. Magari è una strada questa dalla quale bisogna passare per delle forche caudine, per delle sconfitte, per crescere. Può essere che sia così, più che il numero degli abbonati, il peso politico e queste altre cose. Quindi per me così stanno le cose, insomma. Luca, grazie, primo convocato di oggi, 800240024 è il numero verde. Claudio, Bologna. Sì, buonasera. Salve. Volevo parlare della partita di ieri sera, Bayern-Barcellona. Sì. Sono d'accordo assolutamente con lei che è stata una devastazione totale. Certo è che... Mi perdoni, lei è tifoso juventino? No, assolutamente non sono interista. No, ma anche perché io credo che una parte che i tifosi juventini, non so, possano prendere questa vittoria del Bayern Monaco, questo dominio del Bayern Monaco in qualche modo in termini di risarcimento o forse in termini di rivalutazione di quello che ha fatto la Juventus, secondo me sarebbe un errore, perché la nascita, quindi non ho quel difetto là. Non valgono i sillogismi, secondo me nel calcio. No, è anche vero però che come hanno detto, come diceva lei adesso, che molti messaggi parlano di 3 gol da annullare su 4. Allora, è verissimo che ieri sera è stata una strage. Sì, il primo non era da annullare. Ma io, secondo me sì, io in diretta mi sono accorto che il giocatore del Bayern, secondo me, ha appoggiato i gomiti nettamente sulle spalle dell'avversario. Ma non... Ci può stare che non passa, cioè che non sia nulla quello... il gol per fuori gioco, anche perché è una questione di centimetri. Sì, però una questione in ogni caso staremo a parlare di una partita diversa al ritorno. Sì. Se... Ma non lo so, perché magari il Bayern sarebbe riuscito a passare in altre maniere, quindi. Secondo me anche questo parallelo è sbagliato. Se consideriamo la partita nel suo complesso, io ho visto, secondo me il primo gol era regolare, io ho visto quel cristone con una testa di capelli così fare un salto pazzesco, quindi io quel gol non l'avrei annullato. Sul secondo dipende dalle inquadrature, c'è stata un'inquadratura in cui ho detto ma è fuori gioco di un metro, ce ne sono state altre invece in cui si lasciava spazio al dubbio, però il quadro della partita è quello del Bayern che ha comunque strangolato il Barcellona sul piano fisico, sul piano del gioco e anche, come ha detto giustamente prima Paolo Condò, sul piano tecnico, Claudio. totalmente d'accordo con lei, infatti sono assolutamente d'accordo con lei, è stata una strage, cioè non è stato accompagnato alla porta ma buttato fuori a calci nel sedere, come l'avete detto. Sì. È anche vero che con degli abiti così scarsi qualcosa uno potrebbe recriminare. Ecco, senta, ma a lei interista, no, ma mi sento una cosa. Sì. Lei interista, ha sentito prima, non so se ha sentito prima con Do cosa ha detto. Sì, ho sentito. E allora? Lasci stare. Che cosa, di, no? Sul discorso di Müller? Sì. Lasciamo perdere, è una delle lasciamo tante, perdere quella, lasciamo perdere cosa questo giocatore, cioè, abbiamo vinto 5 dovesse... studenti per grazia ricevuta per no, una serie ma di... non è vero, non è, questo ma non è vero, sì, questo non è, ma no, questo non è vero, questo non è vero, non, io non, io voglio discutere di quelli sul campo e non è vero quello che lei dice, grazia ricevuta no, perché l'Inter comunque è stata una grande squadra, ha avuto un ciclo molto breve, avrebbe dovuto iniziare prima la ricostruzione ed è chiaro che un conto è se inizia la ricostruzione per tempo e magari prendendo un talento assoluto come quel ragazzino biondo tedesco che secondo me è uno dei più forti giocatori del mondo e lo sostengo da tanto tempo. Un conto è ricominciare con calma rinnovando dei contratti capestro e poi per tentativi come l'Inter sta facendo ora, sono due storie diverse, l'Inter ha seguito una strada quando con coraggio forse avrebbe potuto seguire l'altra. Sí, sobre todo ellos tenían una marcha más que nosotros, nos presionaba bien, nos acortaba mucho los espacios y eso dificultaba nuestra posesión, nuestra circulación. La verdad es que nos ha competido bastante bien, ¿no? Y cuando pues un equipo compite mejor, tenemos que quitar el sombrero, aunque no acabó la eliminatoria. Dunque, Dani Alves era questo che dice giù il sombrero davanti a questo Bayern Monaco, non come Messi che dice proveremo a rimontare nella partita di ritorno, non sono parole da leader queste, magari esagero, se vi faccio arrabbiare ditemelo, 800240024, ma oggi voglio un altro parere illustre di un altro amico che è Massimo Callegari, Mediaset Premium, ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio. Disfatta storica, Marca. La notte più triste, Sport, incubo, mondo deportivo che critica poi Villanova per la sua gestione, per la mancanza di cambi, si sottolinea l'arbitraggio disastroso di Cassai, però giustamente i giornali spagnoli, guarda la differenza rispetto a quelli italiani, dicono Cassai ha convalidato 3 reti irregolari, ma questo non assolve il Barcellona. Beh no, sicuramente no, nel senso che è vero che sono gol che pesano, perché poi insomma soprattutto il fuorigioco. Ma secondo poi te anche il primo era buono o no? Per il fallo di Dante dici? Sì. Sì, validissimo, secondo me. Anche sì. Secondo me. Anche... Io ho avuto pure dubbi su blocco, poi mi sono arreso perché ero l'unico in mezzo a... Sai che anch'io a prima vista ho detto vabbè blocco, si è messo davanti a... come nella palla canestro, però era un blocco in movimento e anche nella palla canestro infatti, quello si fischia. Esatto. Però insomma, ecco, poi anche il fuorigioco, insomma, sono cose che pesano anche perché poi alla fine il Bayern ha concretato gran parte delle occasioni che ha creato pur avendo gestito la partita e dominato, però la sensazione è vera è che il Barcellona non è alla prima partita in cui quest'anno, in questa stagione, subisce così tanto, gioca così male, in maniera così lenta, era successo col Milan, è successo col Paris Saint Germain una volta e mezza, perché anche a Barcellona, è successo col Real che il Barça ha battuto una volta su 6 quest'anno, e quindi insomma sono più di 3 indizi che fanno una prova che questa squadra, questa, cioè non il Barcellona e me, questi giocatori tutti, però questa squadra con questo stile di gioco, con questa identità sta un po' cedendo e credo stia finendo la sua epopea, che non vuol dire che poi possa riprendere a vincere già dall'anno prossimo, però credo con uno stile che deve essere rinnovato e cambiato. Senti, ma a una dittatura segue un'altra che può essere quella del Bayern Monaco secondo te? È possibile, sì, anche perché insomma mi sembra che stiano rinnovando in maniera abbastanza convinta e con uomini di livello così alto, insomma Goetze è un giocatore favoloso, l'hanno strapagato, però siccome si è discusso molto anche le settimane scorse di questa differenza di fatturato economica, mi sembra che se mettiamo sulla bilancia Goetze e Ibrahimovic, Bayern e Juve capiamo in che direzione va un calcio, quello tedesco ed europeo, e in quale va quello italiano. Sì, vabbè, questo è un paragone forse crudele, caro Massimo. Un po' sì, però insomma Ibra, voglio dire, è un grande costo, è un giocatore. Ma Ibra che... non viene alla Juventus, dai. Non lo so. No, io di certi esperti di mercato inizio, cioè non mi fido sempre e inizio a pensare che insomma stiano tracciando una strada abbastanza. Io non ci credo, ma ha ragione, ma poi alla fine ha ragione Paolo Rossi, che poi sentiremo in quello che ha detto alla Gazzetta dello Sport, e io condivido l'analisi di Paolo Rossi. Spendere così tanti soldi per Ibra a 31 anni, quando comunque devi rinnovarti e fargli un contratto lungo, eccetera, eccetera, ha un senso? Forse no. E questa pista non mi convince. Massimo, invece, per chiudere, in un istante, visto che c'è chi scrive: Bayern fantascientifico, formidabile, ma ancora una volta perderà la finale contro Diabolik Mu. Paolo. sì, bisogna vedere se Mu ci arriva, perché qui tutti diamo già per morto Borussia Dortmund. Io non so per quale motivo, nel senso che sono passati mesi dalla prima fase e il Real sicuramente migliorato, ha più giocatori che possono risolverla, però il Borussia è una squadra fortissima e ha tutte le qualità anche fisiche per confrontarsi con Real Madrid, quindi io non darei così per scontato. No, nemmeno io. No, sarà un grande doppio confronto, un'altra meravigliosa battaglia sportiva. Sarà un'altra meravigliosa battaglia sportiva. Credo ci sarà un grande omaggio forse al Camp Nou la settimana prossima. Non so se è troppo, però insomma, un grande omaggio, un pre pasiglio di honor per il Barcellona, no? Prima di quello della Liga, quello della così. Sì. Della quasi fine dell'epopea di questa squadra, sì, con un certo senso di così di rilassatezza. Finalmente è finita, Massimo. Grazie, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, presto, grazie. Tutti convocati. Ecco che torniamo a 800 24 00 24, e a me viene in mente una domanda cattiva, perfida da farvi. Allora, questa sera naturalmente non si sa come andrà, perché sarà, ripeto, un confronto, un doppio confronto che stasera secondo me non si risolve niente. Tutto cuore, muscoli, concentrazione, sudore, lacrime e sangue, quello tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Allora, immaginiamo, come tutti immaginiamo, come a me piacerebbe personalmente, una finale Bayern Monaco-Real Madrid a Wembley, a Londra. Ma secondo voi, Guardiola, per chi farebbe il tifo in una finale così? Eh? Ditemelo. Cioè, Heynckes che gli consegna un Bayern di Monaco con il triplete e gli dice, gli consegna la Coppa dei Campioni e dice: ragazzo, questa l'ho vinta io, adesso toccate. È uno scenario che non è male da immaginare. 800 24 00 24 è il numero verde per rispondermi, se ne avete voglia, oppure 349 238 6666. Massimo, Brindisi, ciao. Ciao, salve. Senta, io vorrei dire un paio di cose. Allora, prima cosa, sono d'accordo con lei nel dare grandi meriti al Bayern nella vittoria di ieri. Non sono d'accordo con i qualunquisti italiani che sempre con il solito disco incantato dicono ma la Juve è stata distrutta dal Bayern, vince solo l'Italia. Sì. È stato dimostrato ieri che il Bayern è una grandissima squadra. Questo non è che deve servire a noi per consolarci, perché noi dobbiamo migliorare sicuramente. Sì, però certo. È stato dimostrato che il Bayern è una grandissima squadra. Ma lo sapevamo altrimenti anche prima, dovremmo... no? Sì, l'ha dimostrato anche prima. Altrimenti dovremmo dire anche noi, magari sbagliando comunque, che il Barcellona che vince in Spagna e poi va, prende una trambata del genere in Europa, allora non è adatto per l'Europa. Ma direi una fesseria, lo dico anticipatamente. Massimo, come ho detto prima, secondo me il sillogismo nel calcio non vale, cioè non vale dire allora il Bayern ha battuto 0-2 la Juventus, il Bayern Monaco ha battuto 4-0 il Barcellona, allora la Juventus vale quanto il Barcellona, vale più del Barcellona, perché questo è un discorso che non esiste nel calcio, lo sappiamo benissimo, no? Sono d'accordo su questo. Poi l'ultima cosa che vorrei dire, se me lo permette, al tifoso interista che ha detto che essere juventino è un difetto, magari mi lascia il numero di telefono, gli spiego io che cos'è la depressione interista. Grazie. 800 24 00 24. Invece curiosamente c'è un ascoltatore che si chiama Diego che scrive: Messi è un immenso giocatore e un signore nelle dichiarazioni, non un guitto. Invece Maradona, secondo Diego, suo omonimo, era un guitto. Cioè, se Maradona era un guitto, vi aspetto qui al microfono a spiegarmi come e perché. Madonna, benedette le corone. Cioè, semplicemente Messi è un giocatore immenso, però la personalità di Maradona, ma anche di Zidane, ma anche di... aiutatemi voi a fare qualche altro nome tra i fuori classe totali del calcio, non ce l'ha, chiaramente non è colpa sua, però questo carisma da trascinatore, pur essendo un giocatore straordinario, il più forte giocatore del mondo, e aggiungete tutti gli aggettivi che volete, Messi non ce l'ha, ed è per questo che io non vedrò mai Messi portare, spero di sbagliarmi, al titolo del mondo l'Argentina come ha fatto Maradona, perché quella è la prova del 9. E io, da dichiarato tifoso albiceleste, mi auguro di sbagliarmi, però non a me si manca questo tipo di capacità di trascinare un gruppo in difficoltà. Nicola da Pescara. Sì, ciao, buon pomeriggio. Ciao. Visto che parli di trascinatori, io volevo parlare un attimo dell'Inter, anche se non vado fuori tema. Voglio spiegare la mia versione del perché l'Inter in questi ultimi anni ha fatto cilecca. L'Inter ha vinto soltanto quando a centrocampo, grazie ad un allenatore intelligente, aveva qualcuno che era in grado di prendere il pallone, tenerlo e distribuirlo. Non era un fenomeno, era Thiago Motta, era un giocatore mediocre, discreto, diciamo, non mediocre, però comunque era in grado ottemperare a quel tipo di incombenza. In Italia abbiamo avuto una fuga di un cervello soltanto ultimamente, non ti mettere a ridere, si chiama Verratti. No, io perché dovrei ridere? No, perché dovrei mettermi a ridere? Non ti mettere a ridere. No, io ma perché avuto... dovrei? Perché dovrei? No, perché hai ragione. No, ma non è una battuta, non è una battuta, abbiamo avuto fuga di cervelli in ben altri campi purtroppo, però... Verratti è un giocatore che mi è dispiaciuto un mondo veder partire, che io vorrei tantissimo veder tornare. Ecco, io ho avuto la fortuna, spero anche tu, di vederlo dal vivo. È qualcosa di delizioso. È sì. L'unico che ricorda un pochino Pirlo, vagamente, sì, anche sicuro. Se è diverso come morfologia, eccetera. Però ma vediamolo, è in grado vediamolo di prendere crescere. Il pallone e ragionare. L'Inter ha comprato una serie di giocatori mediocri, secondo me, comunque discreti, però non in grado di fare quello che riesce a fare un Pirlo. Allora, le squadre vincenti sono quelle che hanno qualcuno a centrocampo che ragiona, prende il pallone, lo sa dare, sa dettare i tempi alle squadre, alla squadra. Parlare di Ibrahimovic o da Juventus, cose di questo tipo, a me viene da ridere, perché gli attaccanti buoni sono sufficienti in una squadra dove c'è un ragionatore per poter vincere, e questo l'ha capito molto bene Conte, che non mi è simpatico, però è intelligente. Perdonami Nicola, vincere a quale livello? A livello italiano, perché io secondo me alla Juventus, che comunque è una squadra ancora in pieno ciclo, ma che sta un po' invecchiando in molti suoi componenti, Buffon, Barzagli, Pirlo, ed è inutile che mi metto qui a fare l'elenco di quelli che comunque sono nell'età della maturità. Secondo me la Juventus, per diventare una grande squadra europea, ha bisogno non solo di un grande attaccante, di uno che è in grado di risolvere le partite incarognite da solo con un colpo, ma ha bisogno di un giocatore per ogni reparto di livello europeo, se vogliamo parlare seriamente di una Juventus di livello europeo, perché questa è la verità. E Verratti, io mi auguro che possa ritornare nel campionato italiano, e soprattutto trovare nel campionato italiano una squadra come per Balotelli ora, che lo possa far giocare con continuità, senza se, senza ma, senza forse, titolare fisso, perché è così che possiamo vederlo crescere e scoprire il suo reale valore. Questo è ciò che mi auguro io. Pierpaolo, provincia di Pisa, 800 24 00 24, numero verde. Ciao carissimo, tutto bene? Ciao, benissimo. Senti, io la partita di ieri premetto che non l'ho vista, no? Quella del Barcellona contro il Bayern. Chiaramente, come hai detto te, il Bayern, anche sentendo i miei colleghi, avrà asfaltato senz'altro il Barcellona. L'unica cosa è quando capitano questi episodi, poi diciamo che togli un po' anche quel pizzico di, cioè, di suspense per la partita di ritorno. Ora, 4 gol sono tanti, cioè sono la partita ormai è compromessa in sostanza. È solo quello che dico, cioè gli episodi a volte contano anche per questo. Poi sono d'accordissimo con te che il Bayern merita alla grande di andare avanti perché è la squadra più forte, lo ha dimostrato anche contro di noi, sono juventino e quindi sono anche un po' risollevato in sostanza da ieri sera, perché sì, insomma questo, vuol dire che la Juventus quindi non rimanga così tanto. Questa sensazione però io la capisco e la comprendo, ma non, secondo me non è corretta, cioè nel senso che non valgono i sillogismi, come dicevo prima, cioè non guardare alla Juventus che dici ok, allora vale come il Barcellona perché il Barcellona è stato preso a schiaffoni dal Bayern di Monaco, sono storie differenti e la Juventus a me non ha mai dato l'impressione di avere il livello europeo che hanno in questo momento e la statura europea che hanno in questo momento le due spagnole e il Bayern di Monaco, cioè questa è la vera elite secondo me del calcio europeo. Aggiungiamoci il Borussia Dortmund per progressiva crescita, per capacità di gioco, ma non ne vedo altre. Arriverà il Manchester City degli Sheik, arriverà il Paris Saint-Germain, probabilmente arriverà anche la Juventus, ma non c'è la statura in questo momento che hanno le due spagnole, compresa quella che ha preso 4 fischi ovviamente, e il Real Madrid e il Bayern di Monaco. Ragazzi, siete noiosi nel dire Maradona grande sul campo ma mediocre, cocainomane fuori dal campo, Maradona cocainomane, forse te lo sei dimenticato e tutte queste cose. È come dire Valentino Rossi evasore fiscale, eccetera, eccetera. Io guardo lo sport e guardo il campo e mi domando dove sarebbe arrivato Maradona con una testa meno bizzarra e senza quei vizi che distruggono e non aiutano, ricordatevelo. Riccardo da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno gente, complimenti per la trasmissione. È tutto vero, condivido, il Bayern è sicuramente la squadra che gioca il calcio più bello, totale, tra virgolette, quindi è in dubbio la cosa. Però se guardiamo i numeri, anche ieri il 2-3-0 ma sono una grande, ma già una grande gioca male, se poi gli concedi 2 gol irregolari, voglio dire gli aiuti, perché per carità è vero, cioè, sono nettamente superiori, però gli errori incidono, cioè in una semifinale di Champions non si possono fare quei 2 errori là, a mio avviso. Dopo magari vinceva lo stesso, però tra vincere 1-0, 2-0, ribaltare la partita e 4-0 con l'1-2 che insomma taglia le gambe, insomma, ma Riccardo, però la prova, insomma la controprova non ce l'abbiamo, sono stati gli errori, ma gli errori sono dei fatti, però gli errori sono dei fatti, però io apprezzo molto la stampa spagnola ad esempio, che come ho detto prima oggi ha scritto che nemmeno l'arbitraggio disastroso di Cassai assolve il Barcellona, e lo ha scritto la stampa spagnola, mentre noi siamo qui a dire altre cose. Stampa spagnola che parla di 3 gol irregolari quando secondo me sono 2, ma anche questi sono dettagli. Comunque la stampa spagnola stessa ha scritto che quelle reti irregolari non sono una soluzione per il Barcellona, che comunque ieri è stato sul campo e nello svolgimento della partita, nel quadro complessivo della partita, disintegrato dal Bayern di Monaco. Tutti convocati. Eccoci di nuovo qui. Io voglio fare una digressione, perché la notizia è uscita ieri mentre eravamo in onda, cioè quella dell'addio, che poi mi pare essere un arrivederci, non lo so, del jet italiano dello sprint Alessandro Petacchi al ciclismo. Quindi prima di tornare a parlare con gli ascoltatori, prima di leggere messaggi come questo di Paolo, scusate, ma per alzare un po' il livello non potreste chiamare la bambina interista di ieri, meravigliosa, la bimba che ha chiamato ieri, 12 anni e ha parlato con molta più lungimiranza di molti tifosi dell'Inter che mi capita di sentire. Riccardo da Treviso l'abbiamo sentito prima, Pier Augusto Stagi, direttore di Tutto Bici, invece è in onda ora. Ciao Pier. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Allora, Petacchi saluta tutti e scende dalla bici o prende una pausa di riflessione o che succede? Certamente è stato uno dei più grandi sprinter della nostra storia, uno che ha segnato un'epoca, uno che ha un'età avanzata, ma una notizia così improvvisa mi ha sorpreso. Ma sai, a 39 anni hai l'età fisiologica per dire quando te la senti, quando te la senti che non te la senti più di andare avanti. D'altra parte, Alessandro Fettacchi nella storia del ciclismo italiano è il quarto plurivittorioso di tutti i tempi. Dietro solo gente come Francesco Moser, sì, però, Peppe Saronni e Mario Cipollini. Certo. Io personalmente lo considero secondo, perché gli hanno tolto 13 vittorie ingiustamente, e quindi secondo me lui è solo dietro Francesco Moser con più di 190 vittorie al suo attivo. Però c'è una cosa che io non riesco a capire: perché adesso? Cioè, perché non a inizio stagione, perché non alla fine della stagione, perché subito dopo il grande inizio, la Milano-Sanremo, le grandi classiche del nord, è stato alla Parigi-Roubaix se non ricordo male, perché ora? Perché si aspettava qualche risposta in più dal suo fisico in queste in questa primavera, che doveva sorridergli, soprattutto la Milano-Sanremo, che peraltro è stata sfortunata per tutti, perché ricordiamoci una Sanremo assolutamente sconvolta dal brutto tempo, dalle condizioni meteorologiche a dir poco accidentate. Il Petta ci teneva molto, ha voluto anche misurarsi in classiche del nord che non lo avevano mai visto grande protagonista come il Fiandre, e la Roubaix, che sostanzialmente ha corso per la prima volta, si aspettava di poter mettere a segno una o due vittorie per avere quella energia e quelle risorse mentali anche per tirare fino a luglio, perché era già nei programmi che lui non avrebbe fatto il giro ma avrebbe dovuto correre il tour. Però in queste condizioni Alessandro dice: dove vado quando al Tour de France ci saranno i migliori velocisti del mondo, da Mark Cavendish in poi? Allora io penso che il suo ragionamento è questo: mi fermo un attimo, riordino le idee, mi metto un attimo in vetrina, se qualche grande campione tipo Mark Cavendish o qualche giovane come John Degenkolb o Marcel Kittel hanno bisogno di me per fare l'ultimo uomo, per fare, posso ancora fare qualche mese, chiudere facendo un po' da chioccia a qualche velocista emergente, e se no per Alessandro sarà semplicemente la fine, e magari resterà nel mondo del ciclismo come consulente, come uomo che può insegnare. Cioè, tu dici una pausa di riflessione per dire se posso essere utile in qualche maniera per chiudere questa stagione, magari facendo crescere qualche praticamente qualche giovane. Adesso tanto non avrebbe corso a maggio, lui sta un po' alla finestra per vedere se qualcuno lo può ingaggiare per il Tour de France, ho capito, detto come va detto, e poi fare la seconda e ultima parte di stagione e poi fare un gran finale. Questo penso che possa essere un po' nella mente di Alessandro. Ho capito. In ogni caso va applaudito per quello che ha fatto, ha fatto molto, è stato anche sfortunato per certi versi. Lui è un velocista tipico, perché i velocisti sono un po' folli, un po' scapestrati, sì, molto esuberanti. Lui invece è sempre stato un velocista timido, riservato, sì, vero. Di poche parole, molto riflessivo, tant'è vero che era uno che quando è passato professionista nel 96 per 4 anni tirava le volate a Fabrizio Guidi, per intendere. Ricordo. E se non ci fosse stato Giancarlo Ferretti, grande Ferron, che così intuì che lui andava nettamente più forte di Fabrizio Guidi e lo volle con sé alla Fassa Bortolo, quella è stata la svolta. Dovete assolutamente convincerlo, dirgli: sì, Alessandro, guarda che tu hai sei forte, non comune. lui ha vinse per alcune stagioni, ti ricorderai, Carlo, vinse 30 gare all'anno. No, ma poi diceva: ma no, ma ho vinto, ma però magari c'è qualcuno più forte di me, magari non sono all'altezza. Perché lui è sempre stato così, chiuso in quello sguardo che puntava per terra. Vabbè, adesso vediamo come finisce la storia di Ale Jet. Grazie Pier Augusto, a prestissimo. Grazie a te Carlo e buon pomeriggio a tutti. Un abbraccio. Lo scopriremo se il jet è atterrato davvero per l'ultima volta. Alessandro Petacchi. Paolo Milano, buongiorno. Buongiorno signor Carlo, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. No, niente, io volevo fare solo una precisazione per l'interista che ha chiamato prima. Credo che lo rappresenti tutti gli interisti. Quando parlava di grazia ricevuta del ciclo che abbiamo fatto, ritengo che insomma sia stato un grande ciclo. 5 anni non sono pochi. Ma sì, ma sono d'accordo. D'accordo. Esatto, poi culminato con col triplete che non l'ha fatto nessuno. Ma sicuro, ma piuttosto un ciclo molto corto, ma su grazia ricevuta non, insomma, è senza senso, nel senso che l'Inter ha fatto quello che ha fatto con una squadra che andava rinnovata prima, però quel triplete, quello che ha fatto sul campo non è grazia ricevuta. Esatto, ma anche perché i Maicon, gli Eto'o e gli Snyder per un certo periodo sono stati i più forti giocatori del mondo, non c'è dubbio su questo. Esatto, non c'è dubbio, ha ragione lei Paolo. E quegli interisti ne facciamo a meno, ecco, volevo solo precisare questo. Ma no, non si fa meno, non si fa meno, non si fa meno di nessuno, ma poi no, sa. No, dai, va bene, stavo a qualcuno piace piangersi addosso, però grazia ricevuta col cavolo. L'Inter è stata una grandissima squadra, secondo me per un tempo relativamente breve, ma una grandissima squadra. Paolo da Milano, niente, Paolo da Milano era... No, ci ho parlato adesso con Paolo. Scusate ragazzi, sbaglio a fare i conti. Siete tanti per fortuna ogni giorno. Beh, allora ci sentiamo domani. Cartellino giallo, mi alza Roberto Scaltritti dalla regia. Va bene. Guardi una cosa sessualmente vietata ai minori. Allora, dopo questo cartellino giallo, e visto che sono in diffida, domani voglio essere qui, anche se sarà il 25 aprile, in diretta, per parlare con voi. E stasera tutti a guardare con grande attenzione cosa combinerà El Diablo, o El Comandante, come preferisce chiamarlo ancora qualche interista Mourinho, contro il Bayern, contro il Borussia Dortmund. Io sinceramente mi auguro con tutto il cuore di non vedere una finale tedesca tra Bayern di Monaco e Borussia Dortmund, perché mi cadrebbe un po' la libido, onestamente. Mentre Mourinho contro Heynckes e contro il futuro di Guardiola sarebbe già una storia un po' più interessante. Che dite? Sentiamo domani. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti. Adesso sto curando i tacchini e c'ho una faraona che se n'è andata. Adesso devo andare a cercarla nei prati. Il più ricco di un re intorno a te, contadino. Sto togliendo i germogli a un gelso.